Contro il coronavirus, la più gigantesca ed efficiente macchina dell'emergenza mondiale. Gli eserciti. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. The US Army opening its first ever field hospital in New York City, first in memory. Looking at the possible needs across Canada, I directed the Chief of Defense Staff to develop a plan that would allow us to support domestic response to COVID-19. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Vi porgo i saluti da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, che è composta da Antonio Tali, Lara Sesana, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Luca Cremonese, che è qui con me in assistenza, e in console c'è Andrea Roccabella. 349-238-6666, SMS e WhatsApp, Twitter Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, Facebook, la pagina è Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24. Per fare cosa? Per commentare o porre domande sul tema e sulla riflessione che vi proponiamo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. La stretta cronaca internazionale ci sta restituendo una serie di massicce mobilitazioni di vari eserciti in vari paesi del mondo, non per lo scopo per il quale noi tutti pensiamo siano deputati, cioè la difesa dei confini nazionali, ma proprio per aiutare i vari stati nell'emergenza e nella risposta al coronavirus. Quanto è efficiente questa colossale macchina organizzativa pensata e analizzata nel suo complesso? E quali sono i rischi e i limiti? Qui c'è un doppio fronte. Gli eserciti, da un lato, combattono assieme alle varie amministrazioni il coronavirus e allo stesso tempo, nelle strade, allo stesso tempo devono evitare che l'epidemia si propaghi in quelle che sono gioco forza degli assembramenti, le caserme, le camerate, i veicoli, eccetera. Quindi un doppio fronte che potrebbe, se il secondo non fosse adeguatamente gestito, creare una debolezza. Immaginate un esercito in cui vi fossero parecchi focolai e quello stesso esercito dovesse essere chiamato a difendere i confini nazionali. Questo è il tema di quest'oggi. 349-238-6666 per voi e sempre per voi. La prima cosa che faremo è sfogliare i grandi dossier internazionali. La prima notizia degna di nota ci arriva dagli Stati Uniti, in particolare dalla voce del suo presidente Donald Trump, che vi faccio sentire immediatamente. They called it wrong. They called it wrong. They missed the call. They could have called it months earlier. They would have known. And they should have known. And they probably did know. Attacco frontale del presidente statunitense all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ha appena detto si sono sbagliati riguardo a molte cose, avrebbero dovuto dichiarare la pandemia mesi prima, avrebbero dovuto sapere quale fosse la reale situazione, anzi, molto probabilmente ne erano pienamente consapevoli. Così poche ore fa il presidente Donald Trump in una conferenza stampa ha addirittura minacciato di congelare i finanziamenti americani all'OMS. Forti polemiche nei toni utilizzati da Trump, oltre all'accusa molto grave che l'OMS non abbia mostrato il giusto tempismo nel rispondere alla pandemia. E poi ha aggiunto in questo fuoco di fila contro la più grossa organizzazione della sanità al mondo che abbia avuto un approccio troppo filo cinese e quindi scatenando evidentemente le reazioni da parte dell'OMS. Ma nella conferenza stampa in realtà il discorso del presidente è stato un po' confuso perché all'interno della stessa conferenza stampa pochi minuti dopo la dichiarazione che vi ho fatto sentire ha sostenuto che lo staff sta prendendo in considerazione l'ipotesi di congelare i finanziamenti americani, il supporto americano all'OMS. Il portavoce sempre dell'OMS ha respinto ogni accusa sottolineando invece l'egregio lavoro che è stato fatto dimostrando come l'OMS abbia dimostrato la forza del sistema sanitario nazionale. Poi vi porto in Afghanistan perché quella lunga odissea dell'accordo firmato a Doha tra amministrazione americana e talebani e poi l'ulteriore accordo che dovrebbe venire tra governo afghano e i talebani stessi si era bloccato improvvisamente ieri, lo abbiamo definito uno dei più grandi fallimenti della grande diplomazia internazionale. Ebbene, perché lo sapete, i talebani hanno annunciato che si sono ritirati dai colloqui, il nodo del contendere era il rilascio di alcuni prigionieri 5.000 in tutto, ma in particolare i Taliban erano particolarmente interessati a 15 figure di alto rango, 15 comandanti che sul campo potrebbero fare la differenza. Ebbene, nonostante quest'ultimo diniego, cioè Ashraf Ghani, Kabul non ha voluto ancora rilasciare i prigionieri, c'è stato un segnale di apertura sempre da parte di Kabul, perché sono stati liberati, almeno è stata annunciata la liberazione di 100 prigionieri talebani che dovrebbero avvenire nelle prossime ore. Sembra un segnale di buona volontà, si è espresso così Javid Faisal, che è il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale afghano, che ha detto il processo di pace deve andare avanti. Il problema è che se da un lato la diplomazia stenta, queste parole sembrano assolutamente vuote, perché la cronaca, come racconta per esempio Tolo News, che è la principale emittente afghana, fa arrivare dalle zone rurali notizie di continui attacchi, per esempio due attacchi diversi nelle ultime ore nel distretto di Dar es Sofa el Balah nella provincia di Samangan, con un attacco dei talebani poi respinto dagli abitanti del villaggio, i quali hanno sottolineato l'assenza totale di qualsiasi forza di sicurezza afghana proprio nella regione. Abbiamo come l'impressione che questa lunga odissea a metà tra il bellico e il diplomatico ancora si debba dipanare, e lo farà probabilmente nel corso di settimane, se non mesi. Si risveglia, almeno secondo le autorità di Ankara, il PKK, o almeno l'ala armata, i militanti curdi, perché questa mattina nella provincia di Diyarbakir, che è il principale centro nel sud-est del paese, Kurdistan turco sostanzialmente, un ordigno è esploso al passaggio di un veicolo di civili. 5 civili sono rimasti morti, sono rimasti uccisi. Era un veicolo che trasportava dei lavoratori, non vi è stata alcuna rivendicazione, non è nemmeno chiaro se fosse quello il veicolo nel target di chi ha sferrato quell'attacco. Ma ancora una volta questo episodio di cronaca ci dimostra come quella ferita profondissima, l'anima curda, quella più militante, se fosse confermato che l'attacco è dovuto a loro, non è affatto sopita. Poi arriva un'altra notizia che affonda le sue radici, pensate, 20 anni fa. Perché? Perché il Sudan ha raggiunto un accordo di risarcimento con le famiglie delle vittime dell'attacco del 12 ottobre del 2000 alla cacciatorpediniera americana USS Cole, e lo ha annunciato il ministro della giustizia sudanese. Sostanzialmente Khartoum aveva già annunciato a febbraio, ha accettato di risarcire le famiglie dei 17 americani uccisi in quel, lo ricorderete, un attacco spettacolare sferrato da Al-Qaeda, quell'Al-Qaeda di Osama Bin Laden, al largo dello Yemen. Il sistema giudiziario americano da sempre riteneva il Sudan responsabile dell'attacco, sostenendo peraltro che nello stesso paese africano non soltanto gli assalitori provenissero da lì, ma come poi è stato anche confermato in seguito da varie fonti giornalistiche, avesse trovato nello stesso paese rifugio proprio Osama Bin Laden. Il Sudan è nella lista degli Stati Uniti come paese nero che sostiene il terrorismo, e questo secondo gli analisti potrebbe essere un primo passo per essere rimosso da quella blacklist e poi poter respirare, perché vi sono evidentemente, come immaginate, delle sanzioni. Intanto continuiamo a parlare della cosiddetta diplomazia della mascherina, questa volta non da parte cinese ma da parte della Turchia, perché dopo gli aiuti che sono arrivati la settimana scorsa a Italia e Spagna, Ankara ha spedito questa mani degli aiuti sanitari per 5 paesi dei Balcani: Serbia, Montenegro, Bosnia e Erzegovina, Kosovo, Repubblica della Macedonia del Nord. È partito un aereo militare dall'aeroporto di Ankara su ordine del presidente, vari kit, test rapidi, mascherine, tute, eccetera. È interessante appunto l'aspetto più prettamente diplomatico, in questo caso direi quasi elegiaco, perché le intere scorte erano accompagnate da una scritta, una citazione del poeta Mevlana, che recitava testualmente, che recita questo: dietro i momenti di disperazione ci sono tante speranze, dietro il buio ci sono tanti soli. Questi i nostri dossier internazionali, ma adesso andiamo al cuore di questa puntata. L'ho lanciato quasi come una provocazione. In questo momento, mentre vi parlo, centinaia di migliaia di uomini dei diversi eserciti nel mondo si sono uniti alle amministrazioni per combattere il coronavirus. E se il ruolo dell'esercito, anche in futuro, fosse destinato anche a cambiare? Quando ho incontrato il governatore Cuomo, mi ha chiesto cosa possiamo fare per aiutarvi. Gli ho risposto: abbiamo bisogno di poter disporre di un edificio entro stanotte e di altri 3 edifici entro domani notte, e abbiamo bisogno di una lista di progetti che intendete avviare. Ci ha quindi messo a disposizione il Javits Center e ora stiamo lavorando qui con l'intera squadra. Queste le parole del generale Todd Semait quando ha incontrato il governatore Andrew Cuomo a New York, dove l'emergenza ha raggiunto livelli allarmanti. Un classico esempio paradigmatico della storia, delle storie che vi racconteremo quest'oggi. La prima linea non è più un paese straniero o magari il paese, la patria difesa da nemici fisici, da droni, da attacchi militari. Il nemico è dentro, è il virus, è la pandemia. E gli eserciti stanno tirando fuori tutte quelle che sono le specializzazioni, le competenze, in alcuni casi anche estremamente precise e aderenti a quella che è l'emergenza. Da ciò lo spunto di riflessione per capire intanto come i diversi eserciti stanno reagendo in maniera diversa e poi quale sarà il futuro di questo ruolo. Una piccola premessa prima di introdurre il primo ospite di questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. 10 giorni fa un articolo del Guardian ospitava una lettera di Sean Penn, non tanto in veste di celebre attore hollywoodiano, ma come fondatore di CORE, Community Organized Relief Effort, che è un'organizzazione umanitaria. Penn tornava indietro in questa sua lunga lettera con la memoria al terremoto di Haiti 2010, quando decine di migliaia di militari statunitensi intervennero per aiutare la popolazione locale. Al di là dei toni particolarmente trionfalistici della celebrazione di Sean Penn rispetto all'esercito statunitense, Penn fa quasi un invito dicendo: abbiamo l'esercito migliore del mondo, perché non utilizzarlo come si deve nella lotta contro il coronavirus? Altre brevissime istantanee. È chiaro che anche l'attività degli eserciti è stata riplasmata dall'emergenza coronavirus. Avete visto le due grosse navi militari arrivare nel porto di New York, e questo già ci dà un'idea della competenza, dell'elasticità che può avere un esercito. Un ospedale mobile può attraccare in qualsiasi porto del paese, garantendo un alleggerimento delle strutture ospedaliere. In molti paesi, tra cui la Francia, per esempio, l'Italia, la Spagna, ma anche la Germania, così come la Turchia, si stanno riducendo le esercitazioni. I cadetti in Gran Bretagna non si addestrano più, si sta rispettando lo distanziamento sociale e molte operazioni sono limitate. Per esempio la Turchia sta limitando i pattugliamenti, quelli così controversi, nella fascia di sicurezza in Siria. In Francia 600 militari hanno contratto il virus, mentre 4 militari che stanno in Africa, l'operazione Barkhane, vi raccontiamo spesso della lotta contro gli jihad in Sahel, anch'essi sono positivi. Insomma, capite che l'ingresso, l'irrompere della pandemia anche nelle strutture militari va veramente a ridisegnare quelle che sono ruoli, funzioni e anche tipi di risposta. Con quale obiettivo? 349-238-6666 per i vostri commenti e le vostre osservazioni. Partiamo da Alessandro Politi, direttore della NATO Defense College Foundation. Direttore Politi, buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buonasera a voi. Allora, direttore, facciamo una cosa. Partiamo da quella che era la grande operazione Defense Europe, una grande mobilitazione della NATO muscolare per, come dire, mostrare una certa potenza di fuoco nei confronti della Russia, una Russia che nel quadrante nord lì si è fatta via più invadente con invasioni dello spazio aereo, eccetera. Questo per ricapitolare quella che era l'operazione, però ultimamente sono arrivati tanti messaggi via WhatsApp che urlavano al complotto. C'è la pandemia, c'è il coronavirus, c'è un'invasione dei militari americani. Come ha letto lei questa strana vicenda tra il geopolitico, il giornalistico e, diciamolo, la bufala? Beh, diciamo, geopolitico senz'altro, anche politico, giornalistico, bufala e poi proprio disinformazione bella e buona, cioè e esercitazioni di rinforzo americano sul fronte europeo ai tempi della Guerra Fredda erano roba normalissima. Virgola, e lo sono tuttora, precisamente per dimostrare un legame transatlantico che non è soltanto affidato alle parole di questo o quel politico, ma volontà, una concreta volontà di essere accanto comunque per garantire la sicurezza euroatlantica in Europa. Quindi è una cosa diversa dal dire la Russia è il nemico. Certamente c'è il grosso problema dell'annessione totalmente illegale della Crimea, nonché della destabilizzazione a metà di un paese, ma questo tipo di esercitazioni sono assolutamente normali e sono la migliore risposta a certe dichiarazioni, no, un po' così libera tra la NATO e mortalmente, la NATO è obsoleta. Ecco, questa è la risposta più chiara. Perché? Perché peraltro anche le nostre controparti russe fanno delle splendide esercitazioni ogni anno a est e a ovest del paese, magari le fanno con delle modalità un po' creative, però insomma nessuno dice che ci stanno invadendo. E lo stesso, poiché gli americani sono i nostri alleati, è un po' ridicolo parlare di invasione. Dopodiché c'è stato, come dire, il tocco di palla sulla questione che non avessero le mascherine, il che è, come dire, fantasioso. La sanità militare, la prima cosa che fa è che si occupa della protezione medica della forza disponibile. Nessuno vuole avere un contingente per metà fatto fuori almeno per 2 settimane di quarantena da un'influenza. E quindi questo è chiaro, tanto è vero che la risposta è stata di ridurre di un terzo la quantità dei soldati. Alcuni paesi, tra cui la Norvegia e l'Italia, hanno detto scusate, forza maggiore, siamo costretti a cancellare o a ridurre moltissimo la nostra partecipazione, ma era molto importante che questa esercitazione avvenisse perché ha un significato ovviamente politico. Aggiungo che la deterrenza non è una cosa che si fa così di tanto in tanto in modo episodico, è una cosa che si fa regolarmente e quindi è, come dire, un'attività normale, esattamente come i russi fanno esercitazioni, no, nel loro paese o nei paesi amici, schierando quello che vogliono. E la voce che state ascoltando, l'analisi di Alessandro Politi, dirige la NATO Defense College Foundation. Ci sono un po' di messaggi al 349-238-6666. C'è qualcuno che mi bacchetta, devo aver fatto un caduto in un lapsus. Osama Bin Laden, non Obama Bin Laden, è evidente. Ma chiaramente un lapsus. Torniamo al direttore Alessandro Politi. Stiamo assistendo a una funzione non propriamente nuova degli eserciti nel mondo, ma sicuramente una funzione che alcuni paesi hanno raramente visto. Alcuni paesi sono abituati a vedere le uniformi girare per le città, altri un po' meno. In alcuni casi vi sono reazioni assolutamente spropositate e da stigmatizzare. Nelle Filippine il presidente Duterte ha ordinato all'esercito di sparare a chiunque violi la quarantena. In altri casi osserviamo una tenuta dell'ordine pubblico assolutamente esemplare. Che cosa significa, Politi, questo? È possibile immaginare in proiezione compiti sempre più civili degli eserciti nel mondo, secondo lei? Ma innanzitutto, almeno per quello che riguarda le forze armate italiane, c'è, come dire, una precisa missione che è di supporto alle istituzioni in caso di emergenza, quindi proprio nulla di nuovo, ma ormai da decenni. Le forze armate sono una tecnostruttura che in genere è altamente capitalizzata e nei paesi del terzo mondo è forse la più capitalizzata, quindi è altrettanto normale che soprattutto in periodi di emergenza, parliamo di cicloni, parliamo di inondazioni, e le forze armate diano una mano, perché questo è, come dire, insomma, a volte sono le uniche che possono fare una differenza. Poi c'è un'altra cosa che ormai si sa da moltissimo tempo con tutte le missioni all'estero di vario tipo. È chiaro che la sanità militare si occupa innanzitutto della sanità e quindi della protezione della forza del contingente, questo è ovvio, ma dove è possibile, dove è opportuno, l'assistenza alla popolazione civile con quello che viene chiamato un orrido acronimo CIMIC, cioè la Civil Military Cooperation, e beh, certo che si dà assistenza anche alle popolazioni locali, non solo perché noi italiani siamo buoni, brava gente, questo è un po' un mito, ma insomma diciamo che abbiamo questa immagine e in genere siamo anche molto amati, ma semplicemente perché questo facilita i rapporti con il notabilato locale e con le popolazioni locali evitando di trovarsi poi ciechi e sordi in situazioni sgradevoli. Chiarissimo. Quando chiarissimo. Uno presta assistenza sanitaria, crea chiaramente un'obbligazione, un legame, un'attenzione che prima non c'era. Sì. E questo fa parte, come dire, della normale politica, soprattutto in missioni all'estero dove poi ci sono situazioni di guerriglia o di terrorismo. Questo sì. È proprio l'ABC. Sì. State ascoltando la voce di Alessandro Politi, che dirige la NATO Defense College Foundation. 349-238-6666. Molti dei messaggi tornano alle sprezzanti dichiarazioni di Donald Trump al veleno, direi, contro l'OMS. Qualcuno ironico, lo stesso Biondo, che ha detto che i numeri sui morti dati dall'MS adesso se la prende con se stesso. Complimenti Trump, chiude con un punto esclamativo ironicamente Luca. Qualcun altro dice: dichiarazioni da piena campagna elettorale quella di Trump, prima per settimane ha minimizzato parlando di chiese aperte per Pasqua, ora resosi conto della reale gravità dalla colpa all'OMS. Gabriele da Modena. Mentre un'ascoltatrice invece sulla pagina Facebook di Nessun Luogo è Lontano dice: mi trovo per una volta d'accordo con Trump e il WHO, quindi l'OMS, nell'acronimo inglese, non ha brillato nel diffondere informazioni utili e credo di aver letto l'allusione all'influenza cinese non sia cosa campata in aria. Spero che, come sempre, fornirete informazioni corrette e oggettive al riguardo. In effetti la Cina esercita un potere notevole all'interno dell'OMS, tanto a causa dei finanziamenti che eroga a questa grossa organizzazione transnazionale, ma anche per ragioni di lobbying. Il direttore Tedros Adhanom Ghebreyesus, che è il direttore generale, ha difeso sistematicamente la risposta cinese, mentre non ha esitato a bacchettare altre nazioni. Questo è evidente che vada detto. Uno dei segnali che dimostrano, e qua diamo ragione all'ascoltatrice, come dire, nel porre qualche punto di domanda, è come sempre quando si parla di cose cinesi vi sono dei termometri incredibili. Uno è Hong Kong, l'altro è Taiwan. Ecco, l'OMS per esempio non ammette Taiwan. Per i cinesi una provincia ribelle sarebbe una trave nell'occhio, ecco, se entrasse nell'OMS. Torniamo con un'ultima domanda, chiedo una risposta, direttore Politi, più telegrafica che può. Quanto può essere pericolosa la pandemia dentro alle forze di sicurezza nel mondo? Capisco di fare una domanda molto globale, molto generale, però esiste il rischio che vi sia un'asimmetria, cioè eserciti più permeabili al virus, quindi nazioni più vulnerabili, più esposte, perché gli eserciti sono più colpiti, e quindi creare un vantaggio competitivo in qualche modo, una zona del mondo rispetto a un'altra, un paese rispetto a un altro. Secondo lei esiste questo rischio? Seconda del tipo di esercito e di società, però vorrei dire una cosa a proposito della Cina, e non tanto della Cina ma quanto dell'ONU. L'ONU deve trattare con tutti, quindi è normale che ci sia, come dire, un'attenzione diplomatica, soprattutto per un grosso paese. Certo. E francamente se gli Stati Uniti, che sono assenteisti dall'ONU da un sacco di tempo, tranne che nel Consiglio di Sicurezza, vedono che non hanno influenza, beh, ritirare gli ultimi fondi, che peraltro sono statali, quindi una goccia rispetto ai fondi privati, ma non è che faccia molto impressione. Vengo comunque alla questione degli eserciti. Certo, gli eserciti sono espressione di un'economia, di una società, di una politica. Quindi un esercito attrezzato ha la possibilità di difendersi meglio perché ha una sanità migliore, ma tutti gli eserciti, quando le cose si fanno molto complicate, raramente hanno il massimo livello di sanità che viene offerto da cosa? Dalla sanità civile, cioè spesso dalla sanità pubblica. E questo è un grosso problema, perché i sistemi a sanità privata chiaramente pensano soltanto a far soldi, perché questa è la loro missione, il profitto. E quindi la sanità pubblica diventa molto sguarnita. E questo è un problema che va al di là delle forze armate. No, assolutamente, torniamo a sottolineare, lo stiamo vedendo in questi mesi, in queste settimane, la sanità, ma aggiungo io, forse a sproposito direte voi, ma anche l'informazione come la difesa sono asset strategici che vanno protetti. Ringrazio tantissimo Alessandro Politi, che è direttore della NATO Defense College Foundation. Direttore, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Allora, tra pochissimo andiamo a sentire come vanno le borse. C'è qualcuno che mi rimbrotta su Taiwan, escluso dal WHO, hai minimizzato un po' troppo. Chiedo venia, magari ci torniamo subito dopo le borse. Nessun luogo è lontano. Buon Buona giornata e ben ritrovati ancora una volta, ascoltatrici e ascoltatori. Questa mattina leggevamo un interessante pezzo della BBC a firma di Jonathan Marcus, che è il reporter diplomatico del network di Stato britannico. Era intitolato questo articolo "5 cose che l'esercito può fare durante una pandemia" e andava a illustrare i punti di forza degli interventi degli eserciti nelle pandemie stesse. Partiva tratteggiando quello che sono le persone, dice, sono delle persone motivate, disciplinate, molto ben addestrate, con una ampia gamma di possibilità, di competenze, di conoscenza. Hanno la possibilità di disporre di mezzi che a volte i civili non hanno. Hanno una catena logistica particolarmente efficiente, perché deve funzionare in un momento estremo come quello della guerra. Possono dare una mano a tenere l'ordine pubblico in alcuni scenari. In sostanza, una macchina che fa della prontezza e dell'efficacia la sua dimensione principale. Vediamo se è d'accordo con questa ipotesi, con questa tesi, il prossimo ospite, il generale Vincenzo Camporini, consigliere scientifico di IAI, ex capo di Stato Maggiore. Generale, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta. Allora, c'è un'alternativa all'intervento dell'esercito. Abbiamo raccontato di tanti quadranti. Decine, centinaia di migliaia di uomini nel mondo, militari, stanno intervenendo. È l'unica soluzione, secondo lei? No, non è l'unica soluzione, ma è certo che in una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo globalmente, organizzazioni strutturate, pronte, dotate di sistemi, di uomini preparati e competenti, è assolutamente preziosa. Sì. Io mi richiamo un po' a quello che disse in quel filmato che è stato recuperato in questi giorni, dove c'è la presentazione che fa Gates della prossima guerra, dove dice dobbiamo organizzarci come le forze armate per poter sconfiggere un nemico di questo tipo. L'importante è appunto avere delle capacità di pronto impiego, e poiché nessuna società si può permettere di tenere sempre di pronto impiego per essere disponibili in qualsiasi emergenza, le forze armate, che lo sono per definizione, diventano a questo punto essenziali. Sì. Le competenze del generale Vincenzo Camporini per animare la discussione, il dibattito che stiamo sostenendo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, voglio andare dritto a un altro punto molto sensibile, nevralgico, generale Camporini, e lo faccio facendole ascoltare la voce di Jack Watling, che è ricercatore di scienze strategiche e militari e specializzato in truppe terrestri al RUSI, Royal United Services Institute. Lo scoppio del Covid-19 sta facendo registrare un incremento delle sfide della difesa. Sto pensando agli jihadisti in Siria che risollevano la testa, le milizie in Iraq, i talebani in Afghanistan, tutti teatri dove le coalizioni, gli eserciti occidentali stanno fronteggiando anche l'emergenza della pandemia. Sentiamo la risposta di Jack Watling. Stiamo notando che un certo numero di attori sta traendo vantaggio dallo scoppio della crisi Covid-19. Ad esempio, abbiamo assistito a un incremento degli attacchi missilistici contro le forze della coalizione, incluse forze NATO, in Iraq. C'è un aumento delle operazioni dei proxies iraniani che vogliono scacciare gli Stati Uniti e i loro alleati dall'Iraq. Stiamo vedendo anche che gli Houthi si stanno impegnando in operazioni di attacco contro Riyadh, incluso un attacco missilistico. E poi, se guardiamo ad esempio al Mali, un'area dove un certo numero di nazioni NATO è schierato sul campo per sostenere il governo maliano, lì stiamo assistendo a un'escalation degli attacchi contro l'esercito regolare maliano da parte di diversi attori della zona. Insomma, sì, stiamo assistendo a un aumento dell'attività militare e allo stesso tempo i russi hanno dispiegato un certo numero di navi nella Manica e nel Mare del Nord, mentre stanno continuando a disturbare gli spazi aerei di diversi paesi NATO con una certa frequenza. Tutte queste sono aree che causano preoccupazione, ma non credo che ci sia una minaccia concreta contro la NATO all'orizzonte. Tuttavia, è importante tenere a mente che esistono attori, come questi, che stanno usando la distrazione di diverse nazioni, dovuta al coronavirus, per ottenere vantaggi significativi sul terreno. E quindi, proprio perché siamo distratti, da parte di questi attori aumenta il rischio di commettere errori di calcolo su quello che potremmo fare e su come potremmo reagire. Insomma, c'è un certo numero di preoccupazioni sulla sicurezza che sono molto immediate e si stanno verificando in questo momento, e sarebbe pericoloso se le perdessimo. Very present and ongoing, and it's dangerous if we lose sight of them. Il commento di Jack Watling del RUSI, Royal United Service Institute, sostanzialmente dice: in alcuni quadranti, settori ben specifici, si può creare una situazione asimmetrica dove le forze ostili ne traggono vantaggio. Generale Camporini, è qualcosa che le risuona familiare? È qualcosa, è secondo lei uno strumento nelle mani di qualche gruppo, di qualche milizia, di qualche gruppo terroristico realmente utilizzabile? No, più che uno strumento direi che è un'opportunità per loro. Noi siamo paesi che si sono impegnati nel passato, siamo tuttora impegnati in una serie di operazioni di stabilizzazione, d'accordo o non d'accordo, comunque sono degli impegni che abbiamo preso, sia da soli sia in coalizione con altri, ed è evidente che nel quadro di un dramma come quello che stiamo vivendo, con necessità economiche di grande spessore, il dubbio se non sia il caso di dirottare alcune risorse da queste missioni a prendersi cura della pandemia è lecito. Quindi non dobbiamo stupirci se qualcuno ci può dire andiamocene dall'Afghanistan, andiamocene dall'Iraq, cosa ci stiamo lì a fare. Sì, sono degli interessi geostrategici di lungo periodo, ma in questo momento abbiamo un'emergenza in casa e quindi dedichiamo meno risorse lì. Certo. Questa è un'opportunità ovviamente per i nostri avversari, diciamo, sì, in quelle aree. Sì. Ed è sfruttabile, io nei loro panni lo sfrutterei, ecco. Certo. E allora, chiaramente, gentili ascoltatrici e ascoltatori, stiamo simulando un gioco di ruolo, ci mettiamo nei panni dei talebani, degli insorti in Iraq. Opportunità, diceva il generale Vincenzo Camporini. L'ultima domanda per lei, la prego di essere telegrafico, come sa fare. Come si stanno difendendo gli eserciti nel mondo, abbia pazienza, un po' generica, forse, dal coronavirus? Più o meno le stesse misure che prendiamo noi civili? Direi un pochino più sofisticate, anche se sulla loro efficacia c'è da riflettere. Guardiamo quello che è accaduto sulla Roosevelt, sulla portaerei di Roosevelt e su altre navi della Marina americana, dove il contagio del virus può addirittura mettere in discussione la prontezza operativa del mezzo stesso. Sì. E quindi da questo punto di vista non illudiamoci che indossare la divisa costituisca una protezione in più. Certo. Diciamo che c'è una disciplina maggiore perché il militare è abituato a rispettare le regole e quindi diciamo c'è meno tendenza a passarci sopra e quindi a correre dei rischi addizionali. Ma non credo che sia una differenza sostanziale. Sì. Io ringrazio il generale Vincenzo Camporini, consigliere scientifico Istituto Affari Internazionali, ex capo di Stato Maggiore Generale. Grazie mille, buona giornata e buon lavoro. A voi. Buonasera. Il vostro asservimento agli Stati Uniti e le vostre patetiche lodi ad un'organizzazione guerrafondaia e anacronistica come la NATO dà il voltastomaco. Ricordo a proposito che la Crimea non è stata annessa, ma ha scelto attraverso libere elezioni a seguito di un golpe nazista di far parte della Russia. O le elezioni valgono solo se chi vince piace agli Stati Uniti? Vergognosi, così un ascoltatore al 349-238-6666. Qualcuno come Shu dice: dobbiamo essere come gli israeliani. Non capisco bene se faccia riferimento alla leva obbligatoria, all'uso dell'alta tecnologia. Qualcun altro: non c'è ombra di dubbio che le forze armate siano non solo attrezzate ma anche preparate per affrontare determinate situazioni, tragedie ambientali e catastrofiche. Però, come abbiamo visto anche in Italia, altro che se sono utili le forze, al di là delle preclusioni etiche che possono avere taluni, ma per preconcetto le forze armate. Così Claudio da Verona, che spezza una lancia in favore dell'utilizzo civile, tra virgolette, delle forze armate. Ci stiamo chiedendo anche in che direzione stiamo andando, perché questa è forse la prima grande crisi globale, globalizzata e globalizzante. Il nemico è sempre lo stesso. Non ci si può permettere di lasciare una sacca di virus in qualsiasi angolo, benché sperduto nel mondo, e quindi evidentemente ci vuole uno sforzo collettivo, uno sforzo eccezionale. Come ci hanno spiegato i nostri ospiti, gli eserciti, per la natura stessa, la reattività che hanno, possono essere una formidabile opportunità. Siamo poi partiti da quell'elegia, che lo dicevo, lettera di Sean Penn pubblicata dal Guardian una decina di giorni fa, per poi cercare di capire meglio come va sul terreno. E lo faremo tra pochissimo, perché andremo nel sud del Libano, dove il comando di UNIFIL è affidato agli italiani e dove un occhio va ai droni israeliani, un altro a Hezbollah e l'altro, se ci fosse, andrebbe ovviamente al coronavirus. Quindi in prima linea, ma non solo, per l'emergenza coronavirus. Tra pochissimo col generale Dal Col vi farò sentire ancora le voci di Jack Watling. Adesso la viabilità, poi l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. In questa puntata di Nessun Luogo Lontano stiamo ragionando su quello che sono i nuovi ruoli, nuovi tra virgolette, e funzioni dell'esercito. Tanti paesi hanno schierato massicci contingenti per far fronte, dare una mano in quella che è l'emergenza coronavirus. E adesso vi porto in Libano, nel sud del Libano, dove col generale Stefano Del Col, che è capo della missione, comandante di UNIFIL, è la missione delle Nazioni Unite in Libano, proveremo a raccontare, a tratteggiare due fronti, perché da un lato c'è la missione di stabilizzazione in un'area particolarmente turbolenta e allo stesso tempo l'irrompere della pandemia pone una doppia sfida. Generale Dal Col, buongiorno, ben ritrovato in Nessun Luogo Lontano. Allora, buongiorno e buon pomeriggio a lei e a tutti i radioascoltatori. Grazie per essere con noi, generale. Tra pochissimo darò i numeri della missione, però mi faccia prima fare una domanda. Che cosa state facendo voi di UNIFIL per evitare la diffusione del coronavirus? Partiamo dalle sedi, dalle vostre basi, dai vostri accampamenti, dalle vostre caserme. Sì, innanzitutto vorrei dire che UNIFIL è composto dalla contribuzione di 45 nazioni diverse, siamo in 10.500 soldati e 1.000 civili, quindi è un bacino di utenza piuttosto variegato, sì. e anche composito. Sì. Abbiamo iniziato a gestire il coronavirus all'inizio, anche perché ho un contingente che proveniva, dal primo paese che ha sofferto del coronavirus, e quindi già dalla fine di febbraio noi abbiamo imposto alcune misure preventive per evitare qualsiasi tipo di diffusione del virus. Sì. E quindi di questo si tratta di misure che sono indirizzate alla prevenzione. Ce ne sono molte, al di là di quelle che sono gli aspetti basilari, che sono la distanza tra le persone, l'utilizzo di igienizzanti, il rispetto dei luoghi, ma poi ovviamente su questo si sono anche strutturate tutta un'altra serie di attività, come quello di imporre la quarantena ai contingenti che si sono avvicendati fino alla settimana scorsa. Sì. E che ha funzionato bene, perché abbiamo avuto un caso di un peacekeeper non italiano. Sì. Che si è risultato positivo, ma è risultato positivo mentre era in quarantena. E fortunatamente dopo circa 20 giorni, con due successivi test, è risultato negativo, per cui attualmente non abbiamo casi. Sì. di positivi in UNIFIL. Ma questo, chiedo scusa generale se la interrompo, evidentemente richiede anche uno sforzo maggiore in termini numerici di truppe, perché se il contingente che arriva per 14 giorni non è operativo, evidentemente dovete ridisegnare anche la macchina dell'alternanza, no? Immagino. Questo si chiama un'attività di pianificazione che viene fatta con la gestione dei voli, con la gestione dei paesi contributori. Devono rimanere 14 giorni in più, cioè significa che chi deve lasciare poi il territorio di conseguenza ne rimane due settimane in più. E questo è fattibile, bisogna, ovviamente c'è tutta una necessità di adattare la logistica di tutto questo, a iniziare dalle infrastrutture che ci vogliono per il maggior numero. Certo. Ma per esempio anche per la popolazione, per i miei civili, ho adottato lo smart working anche qui, cioè il 90% dei miei civili lavora da casa, e che continuiamo a operare in teleconferenza direi quasi ogni giorno. Sì. Su questo però il segretario generale proprio delle Nazioni Unite lunedì ha diramato una disposizione da New York che ha bloccato tutti i cambi dei contingenti in tutto il mondo per li ha posticipati per 3 mesi, per sì. cui significa che attualmente non possiamo più avvicendare né contingenti né ufficiali di staff per i prossimi 90 giorni. Sì. Ecco, su questo stiamo continuamente lavorando. Ho appena finito una videoconferenza proprio con New York per capire effettivamente la gestione di un posticipo di 3 mesi sui cambi. Certo, gli italiani peraltro sono il secondo contingente più numeroso dopo l'Indonesia con oltre 1000 persone, e anche gli italiani avranno slittamento del proprio cambio di autorità, sì. così come tanti altri. La voce che state sentendo è quella del generale Stefano Del Colle, il capo della missione, comandante di UNIFIL in diretta dal sud del Libano. Due fronti, quello della pandemia e poi quello della stabilizzazione in un'area particolarmente turbolenta. Generale, voi lavorate anche a contatto con la popolazione libanese distribuendo materiale sanitario, e questo è un aspetto che va sottolineato. Allo stesso tempo, in questa puntata di Nessun Luogo Lontano stiamo ragionando sulle opportunità che alcuni gruppi, forze ostili, come magari voi le chiamate nel gergo militare, potrebbero approfittare dalla pandemia di coronavirus. Lei nota movimenti diversi in quell'area, magari meno efficaci, magari gli stessi Hezbollah si muovono meno, gli stessi israeliani controllano meno. È cambiato qualcosa con la pandemia? Ma vorrei sottolineare che noi continuiamo a lavorare e a operare sul territorio in questo gergo militare che noi usiamo 24/7, cioè sì. traducendolo sono 24 ore ogni giorno per 7 giorni, e non abbiamo modificato la postura operativa della missione, l'abbiamo adattata alla situazione, nel senso che usiamo una precauzione per ovviamente per contenere un eventuale aumento, visto che il Libano comunque sta soffrendo anche di casi positivi, e quindi difendendo noi stessi ma difendendo la popolazione con cui l'ambiente in cui operiamo. Certo. Quindi l'abbiamo adattata, nel senso che sono piccole misure ma che servono anche per assicurare la popolazione locale. E per quanto riguarda le attività su questa linea che separa Israele e il Libano, che si chiama Blue Line, che non è un confine perché i due paesi sono tecnicamente in guerra ancora tra di loro, ma è una linea che li divide, che è il nostro centro di gravità, di fatto dove noi maggiormente attuiamo le nostre attività operative. Ecco, su questo devo dire che la Blue Line rimane stabile, non ci sono avvenimenti come quelli che sono accaduti l'anno scorso, nel mese di settembre, quindi con scambio di fuoco tra il nord e il sud della Blue Line, e su questo io mi sono costantemente in contatto con le parti. Non fisicamente, perché ovviamente anche Israele è in lockdown, certo. E quindi non è possibile recarsi, ma la tecnologia ci aiuta e quindi io sono in costante contatto con le parti. Tra l'altro abbiamo un meccanismo che si chiama tripartito, che dove ogni 7 settimane i rappresentanti dei due paesi con la mediazione di UNIFIL si incontrano per discutere le problematiche relative alla gestione della Blue Line, soprattutto quelle che sono le violazioni a quella risoluzione che dà il fondamento alla missione, che si chiama risoluzione 1701 del 2006, dopo la guerra del 2006 emanata. Su questo adesso per la prima volta, probabilmente tra non molto tempo, organizzeremo il primo tripartito virtuale attraverso la videoconferenza, per non far cedere al momento e invece per mantenere il contatto stabile, certo. e duraturo tra le parti. Certo, e questo è esattamente quello che vi raccontavo, ascoltatrici e ascoltatori: quando il fronte diventa doppio in epoca di pandemia bisogna attrezzarsi, tirar fuori risorse, affidarsi in alcuni casi alla tecnologia. Grazie mille generale Stefano Del Colle, capo della missione UNIFIL. Buona giornata, buon lavoro generale. Grazie a voi. voi, a tutti quanti, grazie. Ancora un minuto e mezzo, poco o meno, chiudo con i vostri messaggi arrivati al 349-238-6666. Ferdinando da Bologna: ritirerei tutte le nostre forze armate dalle missioni internazionali, c'è bisogno nella nostra Italia. Così un ascoltatore: cosa ci fa un contingente italiano in Cina? Non eravamo collegati con la Cina, gentile ascoltatore, ma col sud del Libano, Blue Line, confine con Israele, per quella missione di pace a guida italiana che si chiama UNIFIL. Un altro ascoltatore: ma dare un segnale unilaterale, esce un po' dal seminato, ma rispondo volentieri, un segnale di pace a Iran e Russia togliendo le sanzioni non potrebbe essere utile? Ne abbiamo parlato spesso qui nel Sul Luogo Lontano, non solo, dicono alcuni, dovrebbe essere utile, sarebbe utile, ma sarebbe doveroso. Proprio questa mattina Hassan Rouhani, il presidente iraniano, ha twittato invocando proprio questo, dicendo attenzione, non vi sono paesi di serie A, paesi di serie B, le sanzioni in questo momento di pandemia non fanno bene a nessuno, ovviamente nemmeno all'Iran. Ci servono altri messaggi, qualcuno torna ancora, soprattutto su Facebook, su quella che è la questione delle fake news propagate, soprattutto a causa e sul coronavirus, ci torneremo sicuramente, ma adesso Andrea Roccabella, una sola parola. E i saluti e i ringraziamenti, alla squadra in Nessun Luogo, a voi soprattutto ascoltatrici e ascoltatori. Vi ricordo che l'appuntamento è domani, ore 16, quando di nuovo Nessun Luogo sarà lontano. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.